Allora, sono le 11 e 16 minuti per esattezza. Questa è Radio Onda Rossa. Oggi è sempre sabato 26 di febbraio e siamo di nuovo in diretta in quest'altro spazio redazionale. Abbiamo detto che era una sorpresa, non abbiamo detto a chi ci ascolta che cosa sarebbe avvenuto in questo spazio. E adesso la sorpresa la svegliamo. Dunque, sono qui con noi un bel nutrito gruppo di ragazzi e ragazze che fanno parte del laboratorio teatrale del centro diurno di Santa Maria della Pietà. Loro si chiamano La Voce della Luna. Noi li abbiamo conosciuti perché sono venuti qui in radio qualche tempo fa a presentare un loro spettacolo teatrale, niente proprio di meno che La Tempesta di Shakespeare, uno dei lavori più interessanti fatti dall'autore inglese Shakespeare, che il 28 e 29 è andato rappresentato qui a Roma. Noi l'abbiamo anche visto ed è stato una cosa molto bella. Ora, il problema, sono qui intanto perché ci fa piacere che loro raccontino la loro esperienza che stanno facendo attraverso questo laboratorio teatrale, appunto nel centro diurno di Santa Maria della Pietà, e perché in realtà da un po' di tempo a questa parte girano venti, come dire, un po' complicati, nel senso che mentre armi, guerre, si spendono tutti i soldi necessari, perché figuriamoci, e anche per le grandi opere eccetera eccetera, per cementificare le città, però per invece queste attività si vocifera che vengano tagliati i fondi. Questo li ha allarmati molto, e allarmati e allarmate le ragazze e i ragazzi di questo centro diurno, perché verrebbero sospese le loro attività. E allora volevano venire qui e loro direttamente ci racconteranno questi problemi. Intanto diamo la voce a Marcello, che salutiamo. Ciao Marcello. Ciao. Allora tu ciao a tutti. Fai una piccola premessa, poi ti togliamo la parola e la diamo direttamente a loro. Perfetto, sì sì. E innanzitutto la prima cosa che voglio dire è ringraziare per l'ennesima volta i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa che ci hanno ospitato e ci stanno ospitando. E questa per noi è una cosa molto molto importante. E dicevi tu giustamente che ci stanno togliendo i fondi, pare. C'è una, come si dice qui a Roma, una tarantella sui soldi, tolgono, mettono, e quindi siamo molto molto allarmati. Un primo effetto di questa ipotesi di decurtazione dei fondi già noi l'abbiamo subito. Noi saremmo dovuti andare martedì e mercoledì prossimo a Torino a mettere in scena La Tempesta di Shakespeare, e non andremo a Torino, non andremo alla Sala Espace, un teatro molto importante di Torino, e non ci andremo perché di fatto al momento non ci stanno i soldi. E questa cosa è una cosa gravissima dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, dal punto di vista terapeutico, da mille punti di vista, e segna dal mio punto di vista il degrado del nostro paese. Insomma, è una cosa triste, molto triste. Quindi nel nostro piccolo noi dobbiamo far sentire la voce di quelli che ancora una volta sono esclusi. Noi, il nostro paese è fatto ormai più dagli esclusi che dagli inclusi. Gli inclusi ormai sono chiusi in una piccola enclave, no? una fortezza accerchiata da un esercito di esclusi di diversa, certo, di diversa foggia, per così dire, operai, disoccupati, precari, lavoratori, eccetera. E ci siamo anche noi, nel nostro piccolo, nel nostro grande. Assaltiamo questa fortezza. Dobbiamo assaltarla. Parlare, renderci meno invisibili, significa anche muovere un passo verso questa fortezza, insomma, urlare la nostra o dichiarare la nostra presenza al mondo. E per quanto ci riguarda, noi siamo presenti attraverso il teatro. Letteralmente il nostro corpo, il corpo di chi sta in scena, è un corpo che dice tantissime cose, insomma. E adesso io veramente mi taccio, perché io tra l'altro non sto neanche in scena, quindi io sono la persona meno titolata a parlare di queste cose. Ci loro l'abbiamo visto in scena invece, sul palcoscenico, e adesso diamo la voce a loro. Allora, vai tu, che ti ho visto l'altro giorno, raccontaci tutto. Allora, intanto presente, ti chiami? Io mi chiamo Viola Leonardo. Ok, ciao Viola, ciao Leonardo. E volevo dire che praticamente il teatro ti fa capire tante cose, cioè non ti fa pensare i pensieri al di fuori del teatro. Quando stai lì pensi solo a fare le prove e non pensi a altre cose al di fuori. E poi praticamente il centro diurno dove stiamo noi, alla Voce della Luna, non ci sono riscaldamenti, non funzionano i condizionatori, quindi ne funziona uno prima che si scalda l'ambiente. perché non vengono quelli dei condizionatori a aggiustarlo. Non so se sono scordato, la dottoressa l'ha chiamata, però non so mai, non gliene è fregata niente. E quindi bisogna, dei centri turni, bisogna praticamente, bisogna uscire da noi ci interessano, no, da stare dentro i centri turni, ma a di fuori dei centri turni, tipo gli spazi per fare teatro e farle vedere a tutto il mondo, tutta la città del mondo. Però il regista dice sempre, praticamente è inutile che ti dico come si fa, se ti metto a spiegare come si fa il teatro perdi tempo. Là devi fare le prove, ti metti in mezzo e lo impari prima che lo spieghi. Quindi senti, se venisse a mancare, ipotesi assurda che speriamo di no, e comunque faremo in modo che non avvenga, se dovessero essere bloccati i fondi e quindi dovesse essere cancellata questa attività di teatro, voi nel centro diurno come sarebbe la vostra giornata? Penso che se come dice Marcello, pare che si sono sbloccati, però se li dovessero sbloccare, bloccano tutti i centri turni di tutto il mondo, però poi causa a noi ragazzi, causa che non fai niente tutto il giorno, stai, che so, esci, vai a passeggiare, vai a casa e poi finisci là. Invece i centri turni servono fino a un certo punto, poi devi sempre uscire dai centri turni nei teatri, quindi, perché questo purtroppo stiamo in un mondo in Italia che c'è sta il governo se ne frega, ti dicono per forza devi votare, però non è che poi ti danno la possibilità di lavorare. Se ti dici vai a votare, metto il voto a quella persona, e come il cittadino si lamenta, che dice perché il presidente aumenta tutte le cose, Berlusconi aumenta tutte le cose, però che la colpa è chi è che lo vota, non è di lui, che tu vai a votare è la colpa tua. Quello che hai detto vale più del fondo del Corriere della Sera, che invece non ha capito queste cose, o comunque fa finta di non averle capite. Quindi ti ringrazio di questa lucidità, perché è uno dei punti più importanti dell'analisi politica che fanno i grandi politologi, quelli che hanno 3-4 lauree, però poi alla fine quindi è una bella colpa di chi va a votare e che vota in un certo modo. No, perché quando dire che si organizzano, si lamentano, dice ecco. No, perché quello aumenta le tasse, aumenta quello, però se tu vai a votare, certo, non è quello se vede interessi, su, come dice tu, uno dice la benzina aumenta, però se tu ti cittadini la mettono, io a me la penso che se tu non vedi che lo Stato non la metti, cioè che sta bassa, invece tutti la mettono, la benzina e aumenta. Senti, vogliamo sentire quella bella ragazza. Allora, intanto dici come ti chiami. Allora, io mi chiamo Diana Pucci e frequento il laboratorio dal 2005. Allora, che esperienza hai avuto in questo? Sono parecchi anni, Sì, io ho frequentato quasi tutti i laboratori nel centro diurno, e in particolar modo mi sta molto a cuore il teatro, che io non sapevo che era la parola teatro, e quando piano piano l'ho scoperto mi sono messa proprio in gioco io a scoprire prima il mio corpo, cioè a scoprire prima il mio corpo, quello che sapeva fare e quello che poi il teatro che ti dà, quello che poi vivi in quel momento che fai teatro, l'emozione, la gioia, insomma, ti metti in gioco tu te stessa, ti metti in gioco, e ho scoperto che è una bellissima cosa, che cioè ti fa proprio crescere. E ti fa esprimere tutto quanto quello che una persona è, e quindi se questi laboratori ci tagliano a noi questi laboratori e noi andremo al centro diurno a non fare niente, per me non è una bella cosa, cioè è come dirti stattene a casa perché tanto ti rinchiudi tu solo in casa. Prima ci raccontavi che hai seguito un po' tutti i laboratori. Sì. Quali attività altre, oltre al teatro, hai potuto fare? Il disegno, sartoria, la internet, beh, noi video. Noi abbiamo visto anche, abbiamo avuto la fortuna di vedere il vostro spettacolo e devo dire che è veramente, veramente fatto bene, avete recitato in maniera molto coinvolgente e quindi intanto i complimenti. Grazie. E quindi penso se ci tolgono questa esperienza, ci chiudono dentro casa e non ci fanno più uscire. E poi danno i soldi a destra e a sinistra, non li danno a noi che insomma, cioè, che comunque cioè, insomma, mettete sul campo tutta la vostra creatività. Se noi ci levano queste cose, che finiremo dentro all'ospedale, che ne so, invece dargli i soldi a destra e a sinistra, quindi non, per me non è giusto. Ok Chiara, allora sentiamo l'altro ragazzo, ciao, ci vuoi raccontare qualcosa anche tu? Prendi il microfono, dai. Tanto come ti chiami? Andrea. Ciao Andrea. Allora, tu da quanto partecipi a queste attività teatrali? Io ho fatto teatro dal 2006, ho fatto una serie di spettacoli in un altro teatro, poi ho fatto insieme a loro, li ho conosciuti in quell'occasione, un film che è stato anche in concorso al Torino Film Festival. Dopo il film ho chiesto al regista con cui ho un rapporto particolare, che comunque sentivo il bisogno della scena, mi mancava fare uno spettacolo teatrale. Ho detto c'è un gruppo aperto dove posso entrare e fare subito. Ho detto guarda c'è questo gruppo teatrale che è molto bravo, si fanno le prove a Santa Maria della Pietà, vai a vedere, andai a vedere. Ci siamo rivisti dopo le scene del film e ho fatto con loro. Ho fatto subito due spettacoli l'anno scorso con loro, uno a Formello e uno al Forte Prenestino, e poi quest'anno ho proseguito. Per me stare nel teatro è stata una grande risorsa, perché mi ha fatto scoprire delle risorse che ha il corpo, che prima ignoravo più che non conoscevo, perché ero talmente abbagliato dalla facilità dei movimenti che si possono fare, non avevo mai pensato che un movimento si può fare in infiniti modi. Poi logicamente. Allora, Marta, puoi prendere anche l'altro microfono, ce ne abbiamo due, insomma, quasi una sala attrezzatissima, tre microfoni. A te Marta l'abbiamo visto sulla scena, e tu sei un po', diciamo, come dire, sei la regista un po' di questo, co-regista, non so come chiamarti, c'hai un ruolo di coordinatore, coordinatrice dentro questa attività teatrale? Allora, non proprio, nel senso io sono dall'inizio in questo gruppo di teatro, e con Nino che è il regista e Marcello, diciamo, abbiamo un po' un doppio ruolo, nel senso che io sto sia dentro proprio nel gruppo del lavoro che non voglio dire fuori, insomma, però abbiamo anche un occhio da un'altra parte, insomma, e facciamo un lavoro un po' di anche di ricerca, di riflessione sulle cose che poi avvengono nel gruppo, insomma, e per me è molto importante questa cosa, perché solo da fuori non so che cosa avrei visto, insomma, non so se avrei. Io ho imparato a guardare delle cose stando dentro, insomma, facendo questo lavoro da dentro. E quindi, come dire, il mio corpo l'ho costruito insieme agli altri del gruppo, e quindi ho imparato a guardare i loro di corpi, a guardare il lavoro che facevano, insomma. Credo perché lo facevo in prima persona su di me, insomma. Quindi per me è molto. Molto forte questa cosa, molto importante, insomma, e anche questo lavoro, anche appunto un po' più, diciamo, esterno, è molto ricco proprio, perché poi in realtà è un lavoro che, diciamo, sì, mi viene proprio in mente l'occhio, insomma, no? È un continuo lavoro di guardare e di come dire, imparare proprio ad osservare, insomma, no? Osservando si impara ad osservare, viene da dire, cioè è una cosa che si autoalimenta, insomma, proprio si costruisce l'occhio che guarda. Senti, quanto ci avete messo a preparare la tempesta, quella che è andata in scena a fine gennaio? Quanto tempo di prove? Quanto tempo avete, più o meno, quanti mesi avete? Per la verità, diciamo, noi facciamo molto laboratorio proprio, più che la preparazione dello spettacolo in sé, perché lo spettacolo si costruisce attraverso quello che viene fuori nel laboratorio, insomma, quindi non c'è una vera e propria prova dello spettacolo. Probabilmente lo spettacolo viene fuori qualche ora prima di andare in scena, in realtà. Si costruisce, diciamo, l'ultima fase, insomma, no? La messa insieme delle cose da mettere in scena. Quindi è uno spettacolo sempre diverso. Sì, assolutamente, sì. Sì, sì. Cioè il lavoro, come dire, noi abbiamo avuto delle suggestioni dalla tempesta, più che altro. E la tempesta, diciamo, si è fatta suggestionare dal lavoro nostro, insomma, un po'. Non c'è una vera e propria, appunto, lavoro, tanto non c'è un lavoro sul testo, insomma, non classicamente, diciamo così. Quindi non c'è una parte, diciamo, da imparare a memoria che richiede un tempo di prova proprio, no? In un certo modo. È un lavoro più diverso, insomma, e quindi non saprei rispondere, ecco, a questa domanda sul tempo. Io volevo arrivare a questo. Tu che cosa hai imparato in questi mesi, chiamano, di laboratorio, non di prova, cioè di questa cosa che dicevi tu, cioè del fatto dell'espressione dei corpi con cui loro hanno, diciamo, lavorato utilizzando una, diciamo, come spunto la tempesta di Shakespeare, però più che altro era per diciamo, esprimere le potenzialità del proprio corpo. Ecco, tu in questi mesi in cui avete lavorato, diciamo, da persona che hai fatto anche teatro, quindi conosci il meccanismo anche dei professionisti, per usare questo termine, no? Di come gestiscono il rapporto tra loro stessi e un testo che devono rappresentare, come hai visto, che cosa hai imparato appunto in questo stare dentro e fuori, in questo doppio ruolo che hai avuto in questo percorso? È una domanda difficile, però ci serve a noi per capire quello che appunto noi non vediamo solo la rappresentazione, quindi non abbiamo vissuto questo percorso. Cioè c'è un dentro e un fuori. Ottima domanda. Sì, no, infatti non c'è un dentro e un fuori, nel senso che appunto forse ho imparato proprio questo, ecco, alla fine, nel senso che sì, va bene, io ho fatto così un teatro, diciamo, a livello molto così personale, anche molto amatoriale, insomma, perché mi piaceva, no? Però io proprio vengo da un'altra cosa, insomma, ho imparato lì che cos'è il teatro, insomma, no? Io vengo da un lavoro di così, anche di ricerca più classica, sulla messa in scena di un testo, però lì c'è il dentro e il fuori, esatto. Nel testo che viene messo in scena, che sta fuori, e tu, come dire, ti ci devi adeguare in qualche modo, no? Non c'è più il... È come se cadesse il riconoscimento dei ruoli separati, quindi nel momento in cui si sperimenta prima il fuori come studio e poi si finisce a starci dentro, ecco che è come se cadesse il ruolo, no? È come se ci fosse solo la persona lì, fuori e dentro viene meno. Certo, sì, ma infatti, come dire, non so... Mi piacerebbe che parlassimo un po' tutti di questo lavoro che si fa, insomma, perché è molto stimolante, insomma, parlarne insieme. Allora, se, sentiamo Chiara, allora, prendi quello di microfono. Allora, la stessa domanda, diccela tu. Allora, tu da quanto tempo che stai facendo questo laboratorio? Hai detto dal 2006? Dal 2005 abbiamo iniziato col teatro. Ok. Dal 2005. E io penso, vedendo anche gli altri, attraverso come si muovono, abbiamo imparato quasi tutti insieme comunque a muoverci nel teatro. Senti, ma te, ecco, tu corpo, chiedevi a qualcuno come muoverti oppure ci chiedevi a te stessa, cioè cercavi di capire che dovevi fare in quel momento o lo chiedevi a Marta o a Marcello o alla regista? Oppure pensavi tu a che cosa fare in quel momento, come dovevi muovere il tuo corpo? Allora, nei primi tempi Nino ci dava delle informazioni, però poi dopo stava a noi a muoverci come noi ci sentivamo, ci sentivamo. E quindi, e poi vedendo anche con gli altri, comunque il nostro gruppo del teatrale, come loro si muovevano, comunque potevi, mettevi proprio in gioco il corpo, come... Cioè in quel contesto sei tu che scegli cosa sono fare. Io, sì, sono io. Nino ci può dare un indizio, ma però siamo noi come ci vogliamo muoverci. E anche voi scegliete quello che dite, perché c'è un passo un passo teatrale che io ricordo. Sì, la parola bene. L'abbiamo adesso sta uscendo fuori la parola. Prima negli anni nel 2005 non usciva mai la parola. E adesso stiamo mettendo adesso. Io non vorrei rovinare la sorpresa a chi verrà a rivedere il vostro spettacolo, però c'è un momento in cui una ghirlanda, mi sembra, di fiori vola sulla testa dei diversi attori. Questi attori sono coperti, cioè coprono il loro corpo con un cappotto. Sì. Quando la ghirlanda si posa sulla testa di uno degli attori, il cappotto viene tirato giù e la persona che stava dietro al cappotto si manifesta anche attraverso un racconto. Ecco, quel racconto è un racconto che viene lì per lì o è un racconto che si è studiato su una sceneggiatura? Noi non abbiamo niente noi scritto, noi inventiamo, ci riflettiamo, però parliamo di racconto magari noi da piccoli, un racconto che ci... Che appartiene alla vostra storia, alla nostra vita, e lo mettiamo in scena. Però non è che abbiamo copione, non abbiamo niente noi. Avete voi stessi, è la vostra storia. La nostra storia. Sentiamo anche tu, Leonardo, dici allora questo passaggio, come l'hai percepito, come l'hai vissuto? Lo dico praticamente, come dice sempre il regista, praticamente quando lo facciamo degli esercizi degli indizi, il regista ci dà degli indizi, però noi la cosa che ci dice sempre il regista è che dobbiamo praticamente guardarci uno con l'altro e non lavorare per te stesso praticamente. E quindi è una cosa, però non è che ci abbiamo diciamo un test che se dobbiamo ricordare tutto, quindi quando abbassiamo il cappotto dici una cosa da quando eri bambino, il passato come una cosa che te, cioè non è che te la devi proprio, c'è cioè un tema che praticamente ti dice quello che non è studiata. Io sono stata molto sorpresa da una cosa in particolare, no? Che quando una persona tirava giù il cappotto e quindi veniva il momento di parlare, non sempre era solo una persona, erano più persone, però si creava, non so come, una certa intesa e particolare che devo dire non si crea sicuramente nelle nostre riunioni e nelle nostre assemblee, bisognerà andare a fare anche noi teatro, in cui è una cosa veramente, mi dispiace usare questo termine, forse magica, perché è una cosa che non si vive così facilmente. Succedeva a volte durante la scena che due o tre persone tiravano giù quel cappotto, quindi tutte queste persone che tiravano giù il cappotto sarebbero state pronte a parlare, eppure solo una voce veniva fuori. Come facevate a mettervi d'accordo? Perché vabbè, quello se, cioè, no, non è che ci mettevamo d'accordo, nel senso che facendo sempre tante prove, cioè la collaborazione era di noi tutti i ragazzi che partecipavano al teatro, quindi non è che si mettavamo d'accordo. Però come dice sempre il regista, quando non fa una cosa non è devi fare tutti insieme, devi fare un po' per volta, devi dare, diciamo, un tempo, un po' fa che ne so, tutti insieme. Quando per esempio fanno un esercizio, praticamente non è che dobbiamo partire, che ne so, abbassi il cappotto e lo dicono tutti e 10 persone, devi dire un po' per volta, devi dare, diciamo, un tempo, che praticamente se no il tempo dopo, se perdi il tempo non, è, non dai, diciamo, quel ritmo, perdi la sensazione di fai, e lo stare fai, insieme fai casca tutto, c'è tutto quello che stai a fare, sì. Tu dai un tempo, va bene, se invece non dai quel tempo casca tutto quello che hai fatto durante. Io lo senti Andrea un attimo, no? Scusa, perché tu hai fatto le due esperienze del cinema e del teatro. Il cinema abbiamo fatto tutto. Vabbè, però dimmi, io ti domando a te. Allora, che differenza hai provato nelle due diversi, come quello che sappiamo noi, no? Che ci raccontano. Che il cinema, cioè, il cinema è diverso dal teatro. Perché è meno magico. Perché è meno magico, il fatto della ripetitività, invece lì giochi tutto in un gesto. In un momento. Non c'hai la possibilità di rifare la nasce. E come te l'hai vissuta questa tua esperienza teatrale rispetto a quella precedente? Cioè, l'esperienza che ho fatto nel mio primo teatro, è la stessa differenza di cui parlava Marta. Era un teatro molto più vicino a quello accademico che si fa, basato su un testo. Quando ho visto come facevano il loro teatro, mi ha insegnato molto, perché c'era una cura del corpo, dei movimenti, che nello spazio che era un po' trascurato nell'altro teatro, che c'era questa forte presenza del testo che a volte era anche eccessivo. Cioè non dava la possibilità di tirar fuori realmente quello che dal profondo invece poteva venire fuori in maniera unica, perché ogni persona poi ha, credo... Infatti cose... è stata la prima cosa che mi ha stupito, perché io venivo dalla Serra di Pina, avevo fatto l'anno prima la Serra di Pinter, un'altra parte, Alter Cantieri, e allora era un copione abbastanza lungo, quindi comunque mi aspettavo che loro utilizzassero la parola, invece mi ha disarmato il fatto che potessero fare così bene teatro, esprimere così tanto senza utilizzando pochissimo la parola. Poi all'inizio mi ha colpito subito, poi andando avanti alla fine sono diventato anch'io parte del gruppo. Sì, io volevo dire una cosa rispetto a quella cosa che ha detto Simona, no? della scena dei cappotti, che per la verità mi piace molto questa cosa che ha visto proprio Simona, e volevo dire una cosa. È giusto non riuscire a trovare una parola, secondo me, per esprimere quella cosa, no? In realtà non c'è niente di magico, e anzi è una delle cose più concrete che abbiamo fatto, perché c'è stata una costruzione per arrivare a quella cosa, una costruzione lunga, faticosa, di un tempo comune, di un corpo comune che lavora. Per quello si può avvenire quella cosa lì, no? Al contrario, no? Non è magica per niente, mi viene da dire. È proprio concreta, la concretezza del lavoro, proprio quello che noi facciamo, insomma. Quindi, cioè, è un lavoro... Noi diciamo sempre così, un po' scherzando, che siamo dei minatori, però è proprio questo, insomma, no? Siamo lì, scaviamo pezzetto per pezzetto, pezzo del corpo per pezzo del corpo, insomma. Quindi è molto concreto, insomma, quello che facciamo. Anche archeologi. Anche archeologi, sì, anche. Sì, infatti la sensazione di magia proveniva più dal fatto che trovare lo spazio per poter esprimere chi si è e trovarlo insieme ad altre persone è una condizione estremamente difficile, proprio perché appunto non si vede più da nessuna parte questa modalità di stare insieme. E quindi io l'avevo sentita un po' come magica. Mi fa piacere che invece dietro c'è un lavoro. Sì, dimmi Diana, dici. Noi camminiamo, facciamo tante cose, però alla fine non ci rendiamo mai conto del corpo. Invece proprio al teatro, questo che facciamo noi, espressività corporea, ci rendiamo conto come muoviamo la spalla, come muoviamo il piede, insomma, ci rendiamo veramente conto di come parliamo, di come, insomma, di tante cose. ci rendiamo conto. Non è come una vita di tutti i giorni. Ecco, allora. Ci mettiamo corpo, ecco. Cioè, praticamente tu ci stai dicendo, e io l'accetto questa cosa qui, che normalmente noi invece, i cosiddetti normali, siamo imbalsamati. Cioè, siamo proprio imbalsamati. Questo sto imparando io. Soprattutto non siamo proprietari del nostro stesso corpo. Quindi verremo anche noi, dovremo venire prima o poi a fare teatro con voi, perché questa conoscenza del proprio corpo credo che sia decisiva. È una cosa bellissima comunque, perché veramente bella, che ti parte proprio da dentro a ogni persona, poi penso. Certo. Senti, ci prendiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo, così è. You know, the soft one light seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. Down the moonlight on a magic night. Can I just have one more moon dance with you, my love? lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun in all its glory greets this day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine, and it's yours and it's mine like the sun. Allora, mancano 7 minuti alle 12, riprendiamo questa divertente, anche istruttiva, per noi istruttiva, discussione con i ragazzi e le ragazze del Centro Diurno, Laboratorio Tetra del Centro Diurno, La Voce della Luna. Allora, noi intanto qui stiamo facendo una trasmissione un po' anomala, perché noi i conduttori di questa stiamo imparando un sacco di cose da voi. Tu adesso fuori onda, Andrea, dicevi, portando una precedente esperienza teatrale, quindi portando anche una citazione di un personaggio di una tragedia di Shakespeare, quel Mercante di Venezia, che ti riconoscevi però con quella, facevi tua questa affermazione del tutto fatto il mondo che è un palcoscenico dove ognuno ecco, recita la sua, cioè il mondo è un palco, ecco, e perché io prima dicevo, dicevamo insieme con Simona, che in realtà voi ci state raccontando, o ci fate capire che noi invece, i cosiddetti, quelli che normalmente nella vita quotidiana fanno le solite cose, lavorano, vanno a fare la spesa, escono, vanno qua, in realtà siamo imbalsamati, cioè non usiamo il nostro corpo, cioè facciamo delle mosse consuetudinarie, omologanti, sempre le stesse, senza che, come se fossimo degli autonomi, che alla fine non esprimono più niente. Non esprimono più niente, e questo è il problema, e questa è la carenza della comunicazione tra umani, che oggi caratterizza la tristezza di quest'epoca che viviamo, e anche la poca espressività. E allora, tu ti riconoscevi in quello che diceva quel personaggio del Mercante di Venezia, cioè siamo tutti su un palcoscenico a recitare la nostra parte, e quindi bisogna fare attenzione a tutti quegli impulsi interiori che abbiamo, e a volte facciamo finta di non vedere, che ci portano a quel gesto, a quell'intonazione, a quelle parole. In teatro si può fare, perché c'è la scena che ci protegge e mi legittima a tirare fuori tutto quello che ho di più autentico, perché in quel momento incontro il pubblico, gli altri, che diciamo è un dono che faccio io verso il pubblico, infatti pure. Quindi un po' il concetto è quello che, cioè, il teatro ci aiuterebbe a liberare i nostri desideri, ma anche a conoscere le nostre pulsioni, a conoscere noi stessi. Però tu dicevi, in questa cosa io ci colgo una critica pesante, evidentemente, alla realtà di tutti i giorni, cioè ci abbiamo bisogno di un palcoscenico per essere noi stessi, oppure possiamo vivere la vita come se fosse un palcoscenico. Ma un palcoscenico di quelli che state mettendo in atto voi, perché sì, che tirano fuori la parte più autentica dell'essere umano. Non un palcoscenico che in genere siamo abituati ad abitare. Non un palcoscenico di finzione dove ci facciamo vedere per quello che non siamo, dove invece mostriamo quello che siamo. Quello che noi che sappiamo fare con il corpo, ecco. Non dobbiamo mettere in scena il comodino. Uno può riempire anche lo spazio con il proprio corpo. Sì, non è più necessario avere dei suppellettili. Non è più necessario di avere in scena il comodino, oppure la scrivania. Noi stessi dobbiamo andare in scena, penso. Sì, infatti un po' lo spettacolo che ho potuto vedere raccontava anche un po' questo, mi sembra. Sì. Ad un certo punto, dopo il naufragio, dopo la tempesta, si rimaneva privi di qualsiasi suppelletti, sì, sì. E rimaneva la persona, no? La persona, sì. Molto emozionante. Io continuo a farvi i complimenti per lo spettacolo che ho potuto vedere. Infatti noi... noi volevamo uscire fuori, da farci conoscere proprio, se hanno dei teatri comunque, non per forza noi Santa Maria della Pietà, per farci conoscere. Noi volevamo anche avere esperienza in altri teatri. Teatri o spazi sociali? Altri spazi sociali che comunque ci danno la possibilità di farci vedere, di farci conoscere, perché magari la gente non vede, che magari va a vedere un teatro e pensa che magari è tutto, abbiamo un copione, abbiamo... Comunque rimarrebbe chiuso all'interno di uno spazio. Di uno spazio. E noi invece vorremmo proprio uscire dal nostro spazio, perché che la gente ci conosce, insomma, quello che noi che sappiamo fare, quello che la gente anche vorrebbe anche vedere. Anche provocatoriamente facciamo vedere che esiste un diverso modo di stare, in scena e di stare anche nella vita. Provocare gli altri per dire, vedete, si può fare anche questo. Ci sono altri modi per altri poter modi, vivere. Sì. Sì, di dire... Al di là di tutto quello che ci circonda, quindi circonda. Le merci, le macchine, sì. Le case, sì. La consuetudine. Infatti per questo il cinema, come per ritorno, è totalmente diverso dal teatro, perché è difficile essere autentici per una scena che fai ripetutamente. Sempre uguale. Finché non... Invece nel teatro è magico, perché in un gesto puoi donare tutto, no? E doni la parte più bella di te. E oltretutto potrebbe anche essere irripetibile. Esatto. E quindi noi vorremmo uscire fuori da questo spazio del centro teatrale. Bene, io credo che questa invece... Come posso dire? Non stare proprio lì a Santa Maria Vetà, perché comunque noi vorremmo conoscere anche, vogliamo dare anche esperienza in altri teatri. Certo, ma io credo infatti che non ci fermeremo qui, che il peggio deve ancora venire. Io penso che adesso vi strappiamo una promessa, quindi che la rappresentazione teatrale che avete fatto sulla Tempesta, un'altra che vorreste farne, la possiamo fare insieme all'aperto, in una piazza, oppure in un luogo occupato, in un posto qualsiasi, perché nemmeno in un teatro classico, canonico, sì, come sta, cioè in una piazza, in un posto dove la gente possa... Anche in un vicolo possiamo fare il teatro. Esatto, certo. Pure il Campidoglio. Forse per riprendere uno spazio che è nostro. Forse dentro il Campidoglio, nella sala di Giulio Cesare, dove si riuniscono e decidono le sorti di noi poveri disgraziati, quelli che chi lo diceva lui, che ogni tanto mettiamo il voto lì e poi non ci si filano più per niente. Lo dicevi tu, Leonardo? Una cosa che riguarda, diciamo, che riguarda voi. Nel senso, io vi invito a venire dove facciamo noi il laboratorio a Sant'Antonio della Pietà, a vedere come lavoriamo noi praticamente. Sarei contento che venite a vederci. Sicuramente, sì, questo sicuramente. Però poi appunto venite un giorno insieme, no? Venite, andiamo, cioè, insieme proviamo a fare questo, come diceva Diana, in un posto aperto, aperto, senza che ci sia il botteghino, senza che la porta che divide dentro e fuori. Possiamo fare pure insieme, sì. In un posto aperto dove... All'aperto, da di fuori, di Santa Maria della Pietà, della Voce della Luna. Perché... Voi riuscite a comunicare, a raccontare questa esperienza che è utile per voi, ma abbiamo capito da quanto ci state raccontando che è utile per tutti noi, certo. E che anzi molto utile per uscire fuori da quell'imbalsamatura cui ormai non ce la facciamo anche più a starci. A proposito di botteghino, visto che è venuta fuori questa brutta parola, io so che c'è anche una cooperativa, no? Che sta alla base di tutta questa progettualità. Volevo che qualcuno di voi ci raccontasse un po' come funziona questa cooperativa, se ne avete voglia. Sì, questo è un progetto diciamo che sta all'interno di un progetto più grande. Nel senso, c'è un'associazione, per così dire, di uomini e donne che si vede e si è dato come nome Voodoo. Questo gruppo di persone, all'interno di questo gruppo di persone c'è anche una forma burocratica che è quella di una cooperativa. Questa cooperativa, che è la cooperativa Passepartout, gestisci i laboratori da un paio d'anni del centro diurno La Voce della Luna e da quest'anno anche del centro diurno Val Aurelia. Allora, questa cooperativa ha una ambizione, una presunzione, non saprei come una pretesa, quella di lavorare secondo le proprie idee, che mi sembra già una cosa incredibile, non secondo le idee del lavoro, del mercato o quello o come volete definire voi, nel senso che noi nel nostro piccolo abbiamo abolito la divisione del lavoro, per esempio, prendiamo tutti quei quattro soldi che prendiamo, li prendiamo tutti, ovviamente non c'è una gerarchia economica, non c'è una gerarchia appunto di differenza di lavoro, eccetera eccetera. E anche rispetto al teatro, quel poco o quel tanto che prendiamo di incasso si divide equamente per tutti i partecipanti allo spettacolo, quindi non ci sono ruoli, così come non ci sono ruoli, diciamo, gerarchici. Ovviamente ci sono mansioni diverse, c'è il regista, che ne so, ci sono gli attori, ci sto io che non si sa bene quello che faccio là intorno, secondo attitudini, peculiarità differenti, ma a livello economico, a livello proprio di gestione della cosa, per così dire, è tutto collettivo, è tutto di differente, cioè non ci sono differenze dal punto di vista economico, che sono quelle che poi dal punto di vista economico si può vedere, secondo me, si può risalire al tipo di relazione che poi dopo noi mettiamo in campo, cerchiamo, poi magari non ci riusciamo, di mettere in campo delle relazioni armoniose, paritetiche, come si dice adesso, e assolutamente orizzontali, e questo è il nostro intento, che dimostra, secondo me, qui adesso mi fermo, che in questo momento, anche in questo momento storico così schifoso, anche in questo panorama economico, culturale, eccetera eccetera, qualcosa si può fare, dei frammenti di mondi differenti si possono realizzare e mettere in campo qui e ora. Allora, non so, se volete dire altre cose, noi ci fa piacere, quindi possiamo continuare questa chiacchierata. Se no, diciamo, come si dice in gergo, ci aggiorniamo, cioè ci rivediamo un altro giorno e continuiamo questa chiacchierata. Voi ci ragionate, voi continuate comunque questa attività, si continua, no Marcello, adesso questa attività? Le notizie che ci danno, che ci vengono dagli altissimi capi, pare che i fondi, le questioni economiche siano state sbloccate. È pure vero che quando è successo all'apice della crisi economica, noi ci siamo sempre detti continueremo comunque, cercheremo da soli le sale prove, questa è stata la cosa più bella, che comunque non ci siamo abbattuti, ma tutti i ragazzi, tutti noi abbiamo detto beh, rilanciamo, non ci fregano questi qua, non ci fermeranno nella nostra bisogno ormai, la nostra necessità di fare teatro. Diana voleva dire una cosa. Volevamo andare al Campidoglio, se questa cosa si chiudeva, insomma, che non ci fossero stati i fondi, volevamo un po' far dimostrare che noi ci teniamo al nostro teatro, e quindi volevamo far vedere in piazza proprio il Campidoglio, far vedere quello che noi eravamo capaci a fare. E quindi però ecco, ci dispiace che non siamo potuti partire per Torino, perché era un'altra possibilità che c'era stata data, e quindi tolto i fondi e tolto anche le possibilità, e quindi noi siamo molto dispiaciuti che questa cosa non è stata fatta. Devo correggere Diana, ha detto una nesettezza Diana, che questa possibilità non c'era stata data. Ci hanno richiesto, hanno visto dal teatro di Torino, hanno visto il DVD dei nostri spettacoli e ci hanno loro richiesto di fare lo spettacolo, è un po' diversa, non ci hanno cioè, detto che ci aiuteranno. Loro hanno detto adesso vi aiutiamo, se non vi danno i soldi vi paghiamo, anche cerchiamo di, perché pure loro non è che sono straricchi o un teatro ufficiale, cercavano di reperire dei fondi per aiutarci, di fare delle collette per aiutarci a venire giù, perché loro hanno bisogno di vederci. Quindi noi ci siamo presi la responsabilità di mettere in scena anche a Torino, la nostra rappresentazione. E qui prendo, visto che c'è il microfono, prendo un'altra cosa, voglio rilanciare quello che ha detto Diana prima, cioè questa radio per noi può anche servire per chiedere a chi gestisce spazi, ai compagni, chi ascolta, a chi ha possibilità di poter aiutarci a realizzare, a mettere in scena i nostri spettacoli. Ecco, questo può essere, diciamo, questo pulpito, non so come insomma dire, questa radio può essere un veicolo per fare questo tipo di richiesta. Insomma, io sono molto d'accordo con quello che diceva Diana prima sul fatto che dobbiamo uscire da questa palude che si chiama Santa Maria della Pietà, insomma. La raccogliamo, la rilanciamo questa cosa, quindi tra l'altro avevamo già in mente, cioè perlomeno ci stiamo pensando, poi la rappresentazione che avete fatto nel teatro si può fare benissimo in uno spazio occupato, quindi più aperto, senza cancelli, senza botteghino, appunto più libero, e quindi vabbè, intanto così sollecitiamo tutti coloro che hanno uno spazio occupato grande dove si può fare questa cosa a contattare la radio per organizzare questa cosa. E poi ci muoveremo proprio noi negli spazi dove comunemente facciamo le nostre iniziative, di sollecitare per questa. Io credo che sia un buon incontro, perché serve a tutti, veramente serve a tutti, a chi, diciamo, sta dentro e sta fuori, che, come diceva Marta, questa esperienza fa saltare lo schema, il muro, i muri, no? Tutti questi muri che abbiamo in testa, come diceva la famosa canzone, i muri che abbiamo nella testa. E quindi va bene, la faremo, la prendiamo come impegno nostro, vostro, di tutti quanti, e anche di chi ci ascolta. Date da questi microfoni un saluto, però non di quelli convenzionali, visto che siamo fuori dalle convenzioni, tiriamo giù i nostri cappotti. Vai Diana, a te. Che vuoi dire a chi ci ascolta, a chi ci ha ascoltato quest'ora di chiacchierata? Che gli vuoi dire? A te Leonardo? Poi di anche semplicemente i saluti, non è mica un problema. Vai. Io volevo solo chi ci ha ascoltato, volevo dire un saluto da tutti noi cinque persone. Spero che quello che abbiamo detto oggi vi interessa anche a voi, in senso che se continuiamo questa radio, in senso che ci aiuta a tutti noi a sbloccare tante cose che non funzionano in questa città. Andrea, dici qualcosa. Grazie a voi dell'impegno che avete appena preso di aiutarci, grazie a chi ascolta per l'attenzione prestata. Speriamo di poter continuare a dare questo contributo con la nostra attività teatrale. Speriamo che tutto vada bene e porti i suoi frutti, così i sudditi si accorgono. No, perché mi mette la frase che ha detto Leonardo all'inizio di chi vota, il problema è che alla fine il problema del suddito, di essere suddito, non è che il sovrano è cattivo, il sovrano, i padroni fanno quello che devono fare, il problema è del suddito che accetta si sente, di accetta, essere suddito, oh, e non perfetto, si ribella. Perfetto, benissimo. Cosa. Ecco, ci arriva questo invito da Santa Maria della Pietà, insomma, come per dire che insomma, voglio dire, che i sudditi smettano di fare i sudditi è l'unico modo per abolire il sovrano. E per farlo uno deve pure conoscere stesso. Noi siamo proprio la provocazione. La provocazione, una parola che bisogna ricominciare a mettere sul tappeto, la provocazione. Vai Marta, un saluto. Io voglio intanto ringraziare la radio per questo bel incontro che abbiamo fatto oggi. E voglio ringraziare il gruppo di lavoro, che è il nostro gruppo del laboratorio, perché voglio ringraziare la fatica che facciamo, il sudore che emettiamo, i suoni che produciamo, i corpi che faticano e i muscoli che si stirano. Perfetto. Bene, vabbè, allora vi ringraziamo noi tanti. Vai Diana, dai, concludi tu, che è più bello. Un saluto a tutti quanti, chi ci ha ascoltato. Stateci sempre vicino, ascoltate ogni volta quello che diciamo, perché sono cose vere, quello che noi diciamo sono cose vere, e quindi veniteci incontro. Ok, grazie a tutti, non credo ci sia da aggiungere altra parola, ci vediamo prossimamente da questi microfoni. Ciao.